Allora, buonasera a tutti. Io sono in una stanza qui veramente meravigliosa, cioè già tutta la biblioteca mi ha lasciato stupefatta per la bellezza, per come è articolata, eccetera. E qui, di fronte poi a tutto questo materiale di e sulla Manzini, mi sento anche un po' intimidita e temo di portare i vasi a Samo, come si suol dire. Spero di no, e comunque, come già è stato detto, sarà un modo di avere un ulteriore scambio e potremo incontrarci anche su qualche considerazione a proposito di un romanzo che io continuo a credere sia molto importante e significativo da molti punti di vista. E in effetti questo mio intervento è soltanto relativo al romanzo, cioè al ritratto in piedi, anche se dell'autrice si potrebbe dire molto di più, ma circoscrivo appunto queste riflessioni proprio per evitare di disperdermi in vari filoni che potrebbero emergere. E ho cercato diciamo, in questa riflessione, ho cercato proprio di tener conto sia della scrittrice che intende recuperare il suo passato e il rapporto col padre, sia del padre stesso. Quindi, come diceva prima anche Ezio, ho cercato di valorizzare anche la figura del padre. E per questo, nelle fotocopie che vi ho consegnato, trovate un titolo così del tutto contingente relativo a questo incontro di oggi: un padre cavaliere errante dell'ideale, una figlia innamorata della scrittura e poi ritratto in piedi, appunto, di Gianna Mangini. Perché il discorso vorrebbe essere dialettico, appunto, tra queste due figure che si rincontrano attraverso la scrittura, però, e con quella. Quindi, ritratto. Mi piace soffermarmi, sia pur per poco, sull'origine leggendaria del ritratto, perché è molto suggestiva e mi riferisco al ritratto di carattere figurativo, sia pittorico sia scultoreo, ma naturalmente questo è rapportabile con quello che poi quelle che possono essere tante altre forme di ritratto, tanti altri linguaggi attraverso cui emerge un ritratto. L'origine leggendaria è questa: si tratta di una storia, un mito se vogliamo, che troviamo in Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. Si racconta questo: a Corinto c'era un vasaio di origine di Sicione, un vasaio molto bravo e molto apprezzato, e aveva una figlia, la quale figlia giovane era innamorata, riamata da un giovane. E questo ragazzo però sta per partire, non si sa perché, non si sa quanto tempo dovrà rimanere fuori. Potrebbe, chissà, anche non tornare. Per quella notte, per una notte, rimane a dormire a casa della ragazza e di suo padre. Allora lei, non si sa il suo nome, lei, per trattenere l'immagine del ragazzo amato, proprio mentre lui dorme, attraverso la luce che emerge dalla lanterna, guarda l'ombra del volto di lui e lo disegna in qualche modo sul muro. E dopo di ciò il padre riempie quello che è stato in qualche modo accennato dalla figlia e lo riempie con dell'argilla, lui vasaio lo riempie con l'argilla. E poi riesce ad estrarne un calco, e quindi da questi due diversi momenti la tradizione dice che è nato il ritratto in pittura, è nato il ritratto nella scultura. Quindi, da che cosa è nato? Ora, al di là del fatto che poi in pittura e scultura il ritratto non è certamente attraverso una persona che dorme, magari la persona in posa, eccetera, eccetera, ma ora questo non ci interessa. Quello che ci interessa è perché nasce questo ritratto, perché la ragazza in qualche modo lo incide nel muro e poi il padre ne fa una scultura. Tutto nasce dall'amore. Tutto nasce dall'amore perché la ragazza vuole trattenere chi se ne andrà. E quindi la fanciulla di Corinto vuole ricordare, vuole evitare che l'oblio cada sul ragazzo, sul suo stesso amore per il ragazzo stesso. Pertanto noi siamo di fronte a un romanzo che si intitola Ritratto in piedi e che corrisponde pienamente a questa leggenda sull'origine del ritratto di carattere figurativo. Corrisponde pienamente perché Gianna Manzini parte dall'amore che non è l'amore per il ragazzo, ma è l'amore per il proprio padre, e verso il quale prova anche un senso di colpa, poi ritornerò sul tema. Però c'è da aggiungere che questo ritratto è un ritratto in piedi, dunque c'è un'angolazione che lei immediatamente vuole dare, cioè vuol far percepire la dignità, la fierezza, il valore morale della persona appunto ritratta. Certamente la Manzini aveva già scritto ritratti vari, ritratti di letterati e di intellettuali molto importanti, come Pavese, come Vittorini, come Jean-Paul Sartre, La Wolf, che fra l'altro è molto importante per lei. E quindi aveva la dimestichezza, diciamo, proprio con la scrittura tipica di un ritratto. E oltre ad essere un ritratto di una persona che non c'è più, il romanzo è un'opera di carattere autobiografico, completamente autobiografico, e è un romanzo che, come dice colei che fa prefazione alla edizione del 2005, la Martignoni, Clelia Martignoni, qui di una casa editrice di Pistoia, dell'Orso, no? Proprio, sì, questa qui, libreria dell'Orso. E come dice Clelia Martignoni, si tratta di un problematico romanzo sul padre. Sì, proprio problematico, perché in questa dimensione autobiografica emergono i turbamenti, le inquietudini della donna che sa di non essere stata sempre pienamente vicina al padre. Le opere autobiografiche hanno una tradizione antichissima, quindi in questo senso la Manzini si colloca in un filone molto molto noto. Si potrebbe partire da Agostino, ma insomma non c'è bisogno di andare così lontani nel tempo. Sta di fatto che tra autobiografia e memorialistica si tratta di una forma di scrittura estremamente diffusa in tutti i luoghi, anche non solo tempi. E pertanto la componente autobiografica dà un alimento in più a questo ritratto stesso rispetto agli altri ritratti, appunto, che la Manzini ha elaborato. Questo ha un coinvolgimento emotivo naturalmente del tutto diverso, e in effetti fin dall'inizio dall'inizio del romanzo lei si rapporta all'opera con la percezione della morte del padre quando lei non gli era vicino, e quindi si rapporta a lui attraverso un ricordo luttuoso di un lutto che forse non è stato mai del tutto superato. E lei immediatamente si riferisce al cimitero, che fra l'altro ha visto ben poco, insomma. Quando il padre è morto lei stava male, aveva la febbre alta, non ha potuto assistere ad una cerimonia fra l'altro tristissima, non per la morte, ma per come era accaduto e per come si trattava di un funerale quasi di nascosto, visto che era il 25 e la sua morte, la morte di Giuseppe Manzini derivò non direttamente da una colluttazione con un gruppo di fascisti locali, ma indirettamente sì, perché una sassaiola appunto di fascisti locali determinò poi un peggioramento delle sue della sua salute e qui un infarto di poco successivo. E chi era Giuseppe Manzini? Ecco, in effetti è un personaggio, dico in effetti, mi richiamo a quanto diceva prima Ezio, è una personalità molto interessante di internazionalista, prima repubblicano, poi si è avvicinato agli anarchici con cui ha condiviso molti aspetti della sua visione del mondo, anche se poi per un certo periodo si è avvicinato maggiormente anche ai socialisti, o meglio lui auspicava una mediazione tra anarchici e socialisti. E, considerato a Pistoia spesso e dai familiari soprattutto della moglie di Giuseppe, considerato un fanatico pericoloso. In realtà non era così, era una persona, un idealista, questo sì, sia quando era mazziniano sia dopo, un idealista che ha sacrificato tutto proprio per l'idea, per idee di fratellanza, di amore fra gli uomini. Non a caso ha scritto su varie riviste, La Favilla, prima anche dicevo una rivista repubblicana, Il Riflesso, repubblicana e democratica, e poi altre, La Favilla, Sempre Avanti, una rivista su cui scriveva anche altro noto anarchico, Pietro Gori, e poi La Lotta di Classe, eccetera. Ha conosciuto molto presto l'espatrio, un espatrio prima a Nizza, poi altrove, e dall'espatrio poi ha conosciuto il domicilio coatto a Porto Ercole ed infine il confino all'inizio sembrava quasi volontario a Pracca e poi a Cutigliano. Perché queste esperienze da esule? Intanto dico in parentesi che la condizione di esule di Giuseppe Manzini è una condizione oggettiva, storicamente delimitabile e di cui si possono vedere benissimo le cause, ma in realtà è anche una condizione da esule in senso esistenziale. Ecco, lui diventa lui si identifica poi totalmente nella figura dell'esule. Ma perché, dicevo, tutte queste esperienze di allontanamento più o meno obbligato dalla sua città e anche dalla sua famiglia, per ragioni sempre legate alla stampa, sempre legate alla espressione, o per manifesti che magari avevano a che fare con rivendicazioni di lavoratori, oppure una volta per aver portato una corona a Garibaldi durante una celebrazione di ricordo di Garibaldi, averla portata a nome dei socialisti, oppure un'altra volta ancora per aver cantato l'inno dei socialisti, quello con le parole di Turati, no? E quindi ecco, questi sono i suoi reati, quindi non un fanatico bombarolo, ma tutt'altro. E, del resto è lui stesso a dirlo in più di un'occasione, anche nel romanzo viene fuori, mai la violenza individuale. Addirittura una frase che derivava da Enrico Malatesta, che era questa, che Manzini ripeteva alla figlia bambina, se per realizzare la rivoluzione fosse necessaria la forca, rinuncerei alla rivoluzione. Ora, forse non tutti gli anarchici condividerebbero questa posizione, la rivoluzione è anche altro, chiaramente, come tutti sappiamo, però per dire la figura di Manzini è un po' stata questa. Interessante che oltre a aver scritto su varie riviste, abbia fondato una rivista, Ilota, di cui era proprio direttore a Pistoia, e il titolo naturalmente ci fa pensare, perché gli Eloti erano gli schiavi degli schiavi, gli schiavi non dei privati a Sparta, ma gli schiavi dello Stato proprio. Eppure Giuseppe Mazzini era considerato un malfattore, no? Un malfattore, e ora diciamo che io ho saltato in questo momento il primo branetto delle fotocopie, perché non c'è tempo per leggerle tutte, però l'avevo posto qui come introduzione perché è un riferimento alla tomba proprio di Manzini, in cui proprio quegli aspetti caratteriali che ho appena delineati si evidenziano, perché lui lascia scritto che per la sua tomba non vuole fiori, ma vuole piuttosto delle ciotole di miglio. Ciotole di miglio perché tutti gli uccellini che hanno bisogno possano recarsi lì. Infatti dice chissà che voli ci saranno la sera, no? E questo è un'occasione di compagnia, di festa, e lui dice non per me soltanto. Però invece questa figura così anche abbastanza isolata poi e trasgressiva sotto vari piani, è stata considerata un malfattore. E la Pistoia della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento voleva cacciare i malfattori. Vi leggo questo branetto della prima fotocopia, il secondo. Che riassume un po' come se ci fosse una voce che circolava nella città. Cacciarli via per sempre questi malfattori, via con qualsiasi mezzo, la legge sta dalla parte nostra e poi quel che conta è il numero. Quindi lui identificato come malfattore, lui da allontanare. Eppure sulla parola malfattore ci sarebbe da dire molto, però io sarò molto sintetica, perché la parola malfattore, come tutti sanno e come l'etimologia lo chiarisce, significa colui che commette il male, e quindi un malvivente si direbbe oggi, e in effetti tante volte i malfattori sono questo. Però proprio in quel periodo cronologico che ho delineato, malfattore diventa anche una terminologia che identifica il rivoluzionario, che identifica colui che rivendica un cambiamento nella società. Anche Andrea Costa si fregiava del nome, del titolo di malfattori e malfattore. E lo stesso Pascoli, ho portato qualche citazione che ora non leggo, ma la trovate sempre alla pagina 1 delle fotocopie. Lo stesso Pascoli ha avuto un'attenzione particolare ai malfattori. Intanto lui stesso, quando è stato processato per aver manifestato insieme a dei compagni di studi a favore dell'anarchico passannante, Pascoli durante il processo ha gridato: se questi sono i malfattori, viva i malfattori. Certo, era un Pascoli molto giovane e sappiamo bene che poi l'ottica pascoliana è cambiata e non è il caso di affrontare questo. Però in un testo più tardo, cioè nella prima edizione dei Canti di Castelvecchio, quindi nel 1903, un Pascoli già adulto, il poeta si riferisce ai malfattori come quelli, leggo solo due righe, il quarto brano, come quelli che aspiravano a togliere dal mondo il male e si condannavano. Cioè, si riferisce proprio al fatto che questi malfattori che avrebbero voluto radicalmente trasformare la condizione di vita delle classi svantaggiate, venivano chiamati malfattori. E Pascoli però sente ancora. Il Pascoli adulto sente ancora solidarietà per quei malfattori. E, del resto, questa componente profondamente idealistica del Manzini è esplicitata verso la parte finale del romanzo della figlia, quando viene citato un brano che è proprio una sorta di lettera che un tipografo, un amico di Giuseppe Manzini aveva mandato a Gianna, in cui faceva un quadro proprio dell'amico Giuseppe. E questo lo leggo perché è molto significativo, l'ultimo brano di pagina 1. Viveva solo, adattandosi nel miglior modo alle necessità della vita e sempre con dignità. Non sembra esagerazione, di cavaliere antico. Di cavaliere aveva infatti il fisico, l'ardimento, la prestanza, conservata fino in vecchiaia, pur dopo una vita mai facile né comoda, lo spirito cavalleresco e l'attitudine più mite e generosa, il senso di pietà e l'avversione per ogni tipo di ingiustizia. Ecco, in effetti, questo quadro che dà i Ciattini corrisponde alla figura del padre di Gianna e per questo ho dato il titolo a questo mio intervento. Diciamo che è stato recentemente scoperto un testo che appare in questo volume di Aldo Mori, e l'avete qui nella biblioteca, Ermanno Baldassarri e Alessandro Bernardini. Dicevo, è stato di recente scoperto un testo che credo possa definirsi una prosa poetica più che una lirica, che viene attribuito appunto da Aldo Mori a Manzini, a Giuseppe Manzini. E, no, diciamo che le motivazioni dell'attribuzione sono tutte pienamente plausibili, però il testo non è firmato, quindi volendo qualche dubbio può anche rimanere. Io ne leggo soltanto qualche verso. Quello che scrive è un Manzini ormai anziano. Il testo è datato, non è firmato, ma è datato e è del 1923, quindi 2 anni prima della morte. Ne leggo soltanto qualche verso. Qui è solo l'inizio, in realtà questa prosa poetica è molto lunga, più di 100 versi abbondantemente. È intitolato Il Cimone, quindi è una sorta di espressione d'amore verso la natura e di identificazione anche con la bellezza della natura e anche in una sensazione di allontanamento dall'uomo, ecco, per le sue meschinerie. In alto è il Cimone, egli si stava, domina lo spazio infinito e tace. Se parlar potesse, non si degnerebbe lo stesso rivolgere, scusate, pagina 2 delle fotocopie. Se parlar potesse, non si degnerebbe lo stesso rivolgere parole a chi gracidar piace nel basso pantano. Imprese di guerra, proprietà, confini non lo riguardano. Sono queste miserie umane che lasciar conviene in basso germogliare e cristallizzare. Mi fermo, leggo solo le ultime, che non sono le ultime per me. Non v'è vita lassù per coloro che la libertà rifiutano, non v'è libertà per coloro che la vita non comprendono. Direi che possa essere considerata centrale il quinto verso, imprese di guerra, proprietà, confini non lo riguardano. Rifiuto totale della guerra, quindi ecco l'internazionalismo appunto, il pacifismo radicale, ripeto, rifiuto totale della proprietà. Vi faccio un esempio che è un aneddoto ma corrisponde alla verità. Lui in totale miseria viene derubato del suo cappotto. E sicché qualcuno gli dice, ma denuncia, cerca, insomma, fai in modo di ritrovarlo. E lui risponde, ma si vede che chi me l'ha rubato ne aveva più bisogno di me. Quindi la proprietà. Confini non lo riguardano, appunto, quindi nessuna barriera. E questo in nome di un sentimento di amore e di fratellanza, anche se qui non emerge in questi versi, ma in altre opere di lui, e in nome della libertà, perché nell'altezza del monte, diciamo, in questo contatto tra il monte e il cielo, i venti, il sole, c'è proprio come una sorta di realizzazione della libertà. Direi che in quest'opera la visione di Manzini sia più pessimistica rispetto a quello che appare nel romanzo. Nel romanzo c'è più vitalità, c'è più giovinezza, perché in effetti è il ricordo di lei, di quando il padre era ancora abbastanza giovane. Quindi questo recupero memoriale è un recupero memoriale sicuramente difficile. Non a caso la scrittrice inizia con una parte che dura parecchie pagine, una quarantina di pagine, che si intitola Atto di contrizione, quindi un linguaggio religioso, è la contrizio cordis dopo la confessio oris, un linguaggio religioso per indicare quello che deve essere il suo percorso per recuperare il rapporto col padre. E lei racconta attraverso tutta una similitudine con un cavallo che si imbizzarrisce a Firenze e non, quando arriva a un certo punto di Ponte Santa Trinita non va più avanti e non c'è verso. Il cocchiere dice che è sempre stato un cavallo tranquillo, però quando arriva lì vuole tornare indietro, non c'è nessuna maniera per fargli cambiare idea. E lo stesso è accaduto alla scrittrice, perché la scrittrice ha pubblicato questo testo ben tardi, nel 71, anche lei ormai in età avanzata, ma in realtà ci aveva provato molte volte. Molte volte aveva iniziato e era, diciamo, era stata bloccata come il cavallo, perché non ce la faceva. Non ce la faceva superare quel dolore ancora vivo, anche perché pieno di rimorsi. Però l'amore, come quello della fanciulla di Corinto, alla fine la aiuta a dare forma attraverso la disciplina della scrittura a quello che è un sentimento puro. Ma è chiaro che il sentimento puro è caotico, e invece la scrittura deve essere comunque disciplinata, e lei riuscirà in questo. E, ho qui lasciato alcuni interventi critici, anche questi non li leggerò, ma per dare una misura di come varie persone si siano soffermate su questo testo della Manzini, spesso donne, ma non solo, Grazia Livi, Nadia Gustoni, le trovate così. Se volete, per questo ho preparato le fotocopie. Nel primo, per esempio, si fa riferimento alla condizione di Gianna, bambina e poi adolescente, che aveva due figure, due punti di riferimento, una sempre presente, quello della madre, e l'altro sempre assente, quello del padre. Non proprio sempre, perché le era concesso di frequentarlo, eccetera. I due si erano separati non per difficoltà coniugali, ma per ragioni di pregiudizio, diciamo, perché proprio per le scelte ideologiche di Manzini e anche perché lui, socio del cognato, aveva sostenuto gli operai della ditta del cognato stesso in una rivendicazione, quindi c'erano state anche delle difficoltà economiche non irrilevanti. Gli altri testi insistono su questa necessità della redenzione e mi pare, leggerò magari qualche riga di un brano di Ferroni, perché la Manzini è inserita nella storia della letteratura di Ferroni, il che naturalmente è un aspetto più che significativo, perché si tratta di un riconoscimento tutt'altro che irrilevante. Quindi questo è nella pagina 3.1. Nella sua vasta produzione, la Manzini tiene conto di modelli della contemporanea letteratura europea rivolta all'analisi del tempo e delle sue risonanze psicologiche, da Proust alla Wolff, ma mira a tenere ogni parola a un livello sostenuto e volutamente poetico. Tralascio il resto. Importanti questi due riferimenti, Proust e Wolff, perché Il primo fondamentale perché effettivamente il ricordo della Mangini assomiglia molto alle intermittenze del cuore della recherche, cioè si tratta di momenti estemporanei che poi vengono ricostruiti in maniera più lineare. E la seconda, la Wulff, perché la Mangini, già l'ho ricordato prima, ne fa un ritratto e aveva poi in progetto di soffermarsi su questa scrittrice che ammirava molto. Tuttavia c'è un altro influsso che è veramente rilevante e è quello di D'Annunzio, in particolare delle faville del Maglio, le faville del poeta Artiere, del poeta Fabbro proprio, e queste faville sono le scintille, come dicevo prima, le scintille della memoria. E certamente la Mangini ha una cultura molto raffinata, si è laureata al Magistero di Firenze in lettere e poi ha avuto tanti contatti con importanti riviste fiorentine, centri culturali, la letteratura, Campo di Marte, Solaria naturalmente, e poi il Caffè delle Giuberose. Quindi la sua è una cultura anche a volte sofisticata, diciamo pure, quindi ben lontana da quello che è invece la visione del mondo paterna. E quindi attraverso, dicevo, queste faville vengono fuori tanti momenti che diciamo fanno emergere non solo il rapporto di vita che naturalmente Gianna ha con suo padre, ma fanno emergere anche proprio queste divergenze sulla visione del mondo, ma anche sulla visione della letteratura, sulla visione dell'arte. E questo viene messo in particolare evidenza dalla studiosa Martignoni, che ho già menzionato, e anche qui non leggo il brano 2 di pagina 3, la quale appunto sottolinea come il contrasto con il padre fosse anche di carattere estetico, riguardasse proprio la poetica dell'uno e poetica dell'altro. Perché la Mangini poi fra l'altro tendeva anche molto al silenzio, a un isolamento che era molto diverso dall'isolamento che poi, a cui poi approderà anche suo padre. E ho scelto due brani dal romanzo in cui proprio si vede bene la diversa visione del mondo e la diversa visione della letteratura. E brano 3 e brano 4, questi li leggo tutti e due, di pagina 3. Nel primo è il padre che parla. Hai un bel chiudere la finestra. E questo, guardate, fra l'altro è anche è stato utilizzato, ma anche molto più lungo, nella locandina che avete per l'incontro di oggi. Hai un bel chiudere la finestra. Luce, spazio, voci esisteranno oltre la tua stanza. Non li avrai aboliti, cenacoli, elite. È al popolo invece che io miro. È verso la grande speranza di unità che io mi getto. Umanità indissociabile, come una colata di lava, e appartarci è un delitto. Ecco, questa è la visione non solo della vita ma anche della letteratura, anche dell'arte, di Mangini, il quale scrive anche delle poesie anche più brevi, oltre a quella di cui prima abbiamo letto alcuni versi. E che cosa dice lei? Questo, riflettendo più tardi, questo compiacermi di ciò che difficilmente si esprime, questo appartenere al silenzio, nascosta oltre il margine del consueto, con pensieri di non facile corso, è ciò che probabilmente mio padre avrebbe riprovato come peccato di orgoglio, magari di avarizia. Ecco, forse sì, forse questo uno dei motivi di un incontro difficile pur nel grandissimo reciproco amore. E allora, mentre Gianna rievoca, sia nell'atto di contrizione, sia poi, queste faville si materializzano sempre più E lei ci racconta proprio di tanti momenti diversi. E allora viene fuori proprio la città di Pistoia e la presenza degli anarchici in una città che era abbastanza silenziosa, tranquilla, forse dice a un certo punto, forse un po' sonnolenta, lo dice lei, non è che non lo so io, non voglio assolutamente dire niente su questo. E allora fa dei riferimenti così espliciti ai gruppi degli anarchici. Uno è un riferimento, si trova alla pagina 4 delle fotocopie, di una manifestazione degli anarchici, e è ancora nella parte della contrizione. E l'altro invece è proprio nel ritratto in piedi, ed è un momento in cui c'è una cena in una casa di contadini e c'è una manifestazione, anche lì c'è un canto, viene cantata Addio Lugano Bella, e lei bambina felice con il babbo viene a sapere da un bambino di un cane incatenato, e perché è un cane di contadini, quindi incatenato, e proietta questa condizione di incatenati di cui parla la canzone, la proietta sul cane proprio, in una, veramente molto poetico. E quindi leggo ora questi due brani di pagina 4 delle fotocopie, in cui appaiono gli anarchici. E in questo tran tran, in questa noia organizzata, lo scossone degli anarchici. Passavano cantando, passavano. Quanti? Pochi, 30, 40, ma l'ardimento li moltiplicava, e moltiplicava lo sventolio delle bandiere. La decisione del passo poi sbalordiva, e nel loro canto una malinconia gagliarda. Sì, signori, malinconia gagliarda, impeto e struggimento insieme. Scaturiva da una bruma antica e avvampava, mi fermo qui. Considerate il riferimento al canto, il fatto che sono pochi ma moltiplicati dall'ardimento, dal canto stesso, e lo sventolio delle bandiere che arricchisce tutto questo, e notate l'ossimoro, malinconia gagliarda, molto intenso, e dopo l'impeto e struggimento, l'antitesi, bruma e avvampava, no? Tutta questa serie, o di ossimori o di antitesi, ci danno un'immagine proprio della vitalità prodotta dal canto degli anarchici, e che comunque è un canto malinconico, inevitabilmente. E allora lei, dopo, molto dopo, rievoca questo momento. E dice, leggo, mi venivano in mente le cose che il babbo ripeteva a proposito dei cori. Capisci, Giannina, l'importanza, la bellezza d'un unisono nella musica? La stessa misura di respiro, sentire insieme e reggere nella voce, la stessa nota a tempo. Guarda, ti piacciono gli alberi di un viale? Se tira vento, le foglie si muovono allo stesso modo, nello stesso verso, danno una specie di risposta collettiva, come fossero un albero solo. Non saper cantare, non riuscire a perdersi in un coro, è un po' come disertare. Imperdonabile. Immagina, giusto giusto in un viale, l'effetto di un albero solo, impassibile, mentre gli altri agitano una chioma identica alla sua, nutrita della stessa linfa. Ecco, questo cercava Manzini, cioè questa linfa che accomuna tutti gli uomini e che li rende tali, e quindi il coro gli dava proprio questa sensazione. E lei non era così, però la giovinezza di Gianna Manzini è stata una giovinezza solitaria, anche abbastanza malinconica, risaviva dall'amore, sì, dall'amore per la cultura. Firenze ha rappresentato per lei la felicità di entrare nella biblioteca nazionale, di vedere tutti quei libri, di poter andare nei musei, di poter frequentare sale di concerti, eccetera, eccetera. Ma in una dimensione molto più privata rispetto a quello che era l'anelito del padre. E il pensiero paterno viene fuori attraverso vari momenti, e c'è un racconto molto intenso in cui lui spiega alla figlia come è nato il suo pensiero di amore per gli altri uomini, di fratellanza e di rifiuto dell'ingiustizia. Lui, di famiglia benestante, studiava in un seminario e durante la ricreazione va nella sala appunto di ricreazione e due compagni stanno giocando a scacchi e lui tranquillo aspetta il suo turno. Arriva un istitutore che dal momento che Manzini apparteneva ad un ceto sociale superiore a quello dei due ragazzi che giocano a scacchi, toglie la scacchiera a quelli che giocavano e la dà a Giuseppe. E lui rimane non solo stupito ma inorridito e da qui la scintilla e l'idea, cioè l'idea che nasce da un sentimento, proprio come per Pietro Gori. Pietro Gori ricorda e dice di se stesso: il militante di convinzione non fece in me che sbocciare dal ribelle per sentimento. Pietro Gori all'Isola d'Elba vede un bambino piccolo morto in un incidente di lavoro in miniera e da lì diventa anarchico e lo stesso accade a lui ed è molto bello un incontro tra il padre e la figlia a Firenze appunto quando lui vuole mostrarle una poesia. Vi ho detto che ci provava, non aveva la cultura della figlia, però una sensibilità poetica ce l'aveva. E dunque le vuol far vedere un suo libretto, una sua raccolta, una poesia, un bicchierino di gin, si intitola. E comunque i due parlano di varie questioni di tipo letterario e scoprono di avere soltanto un autore di cui entrambi sono grandi ammiratori, e cioè Baudelaire. Sia il padre che la figlia amano molto Baudelaire. Poi però la figlia cita altri poeti, Rimbaud, Valéry, e il padre li è in difficoltà, non li conosce. E allora la figlia, sempre animata da questa necessità intellettuale, perché per lei la vita intellettuale è vita proprio, allora gli chiede che cosa legge, quale autore ama, e lui le risponde Seneca, e in effetti è molto interessante questa risposta, perché ho cercato e ho, insomma, mi sono limitata a due citazioni dall'Epistole ad Lucilium. Certamente analogie le possiamo vedere. Certo, Seneca è un filosofo storico del primo secolo d.C. e Manzini è un anarchico autodidatta in gran parte e comunque vive tanti secoli dopo. Eppure analogie ci sono. E allora leggo qualche rigo, ho anche fotocopiato la parte in latino, così se qualcuno vuole se la può vedere. Sono due brani, uno riguarda la schiavitù. Come sappiamo, nel mondo antico la schiavitù è una condizione cioè del tutto naturale, non naturale, scusate, considerata tale, non è certo naturale, però gli schiavi erano una componente della società, vengono da dei prigionieri di guerra, poi rimangono lì e insomma sappiamo che sono utilizzati in svariatissimi modi, però fanno parte della società in quanto schiavi. Poi qualcuno può diventare liberto e anche vivere più che decorosamente, però rimane il fatto che gli schiavi sono schiavi. Che cosa dice Seneca a proposito degli schiavi? Sono schiavi, dunque uomini, sono schiavi, dunque compagni di stanza, sono schiavi, dunque umili amici, sono schiavi, dunque uniti nella servitù. Se penserai che la fortuna, qui come vox media, quindi la sorte, ha uguale potere sugli uni e sugli altri, tutti siamo in balia della fortuna. Vuoi tu riflettere che costui che chiami tuo schiavo è nato dallo stesso seme, gode dello stesso cielo, respira, vive, muore proprio come te. Tu puoi vedere lui libero tanto quanto lui può vedere te schiavo. E guardate, in latino è molto più rilevante, perché la lingua originale ovviamente è insuperabile per comunicare certi significati. Considerate tutte queste ripetizioni che fanno un'anafora, servisunt, servisunt, e poi immo, immo, immo, che sottolinea, sì, questo, ma è come dire, sono appunto uomini. E poi notate anche ancora in latino quel frui cielo, e poi eque spirare, eque vivere, eque mori, eque, eque, eque, quell'avverbio che effettivamente dà l'idea di quella che è la realtà umana di tutti i tempi. E l'altro brano che è a pagina 5, il primo, l'altro brano ci testimonia un'altra componente del pensiero stoico, e che è presente, sia pure in modi del tutto diversi, nel pensiero anarchico. Sottolineo in modi del tutto diversi perché sarebbe un'assurdità non considerare i contesti storici, che sono fondamentali. E tuttavia mi sembra molto interessante quest'altro passo. Bisogna vivere con questo, sempre nelle lettere a Lucilio, bisogna vivere sempre con questa convinzione: io non sono nato per un solo cantuccio di terra, la mia patria è l'intero universo, anzi più letteralmente è tutto questo mondo. E questa frase è pari pari in una delle canzoni più note del canzoniere anarchico, e anche questo di Pietro Gori. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, e lasciamo stare. E quindi questo ci fa capire come effettivamente Manzini potesse dire di amare Seneca, no? E la figlia è attratta da questo, però la discussione rimane sempre una discussione un po' dimidiata, e ci sono tanti altri momenti che lei ricorda, e diciamo che si potrebbe separare in questo modo il ricordo: quello della infanzia e fanciullezza di piena felicità, cioè lei bambina quando va dal padre che lavora in Via degli Orafi dove fa l'orologiaio, è veramente contenta, il padre è il mito di cui avevo letto poco fa. E fra l'altro in un'occasione ha modo di conoscere Enrico Malatesta, che arriva tutto mascherato, truccato, e poi si toglie tutta la maschera e abbraccia questa bambina. E poi ci sono altri momenti di quando lei è bambina e felice col padre. E dopo invece nell'adolescenza, ma più che adolescenza forse nella prima giovinezza, ecco il distacco, quello di cui vi ho dato testimonianza adesso, quando lei, studentessa universitaria, ha questa apertura culturale che diventa poi un modo di guardare alla cultura stessa, altro, ecco, rispetto a quello paterno. E d'altra parte questi momenti anche diversi ci danno l'idea sempre del sentimento filiale, perché tutti i giovani, e credo che sia sbagliato se non accade, anche se forse a volte oggi accade meno, tutti i giovani hanno il momento di ribellione, no? Nei confronti delle figure genitoriali, o in un modo o in un altro, forse nella mia generazione di più rispetto ad oggi, perché c'erano più libertà da rivendicare, eravamo più condizionati, ma il momento c'è, quindi probabilmente anche per lei poteva essere un momento di passaggio, ma che poi le difficoltà della vita non hanno potuto trasformare in altro, e quindi non c'è stato il momento di recupero completo del rapporto stesso. Eppure il sentimento non è mai mancato, e in effetti diciamo, se il padre è sicuramente circoscrivibile attraverso tutte quelle testimonianze che abbiamo, sia di carattere storico, sia di carattere giornalistico, sia anche di carattere poetico, questi ultimi ritrovamenti, d'altra parte, proprio nel romanzo della figlia emerge tutto questo sentimento di lei, ma anche la presenza paterna attraverso il sentimento di lei. Quindi è complessa la questione, cioè io cercavo proprio oggi di dare questa dimensione duplice, cioè far emergere qualche componente oggettiva attraverso qualche richiamo che ho fatto alle componenti storiche, ma nello stesso tempo anche vedere la componente sempre soggettiva, cioè il padre che emerge dal romanzo, che è il romanzo comunque della figlia. E allora vorrei avviarmi verso la conclusione, in modo che anche voi possiate avere un momento di intervento, se vi fa piacere, insomma, in modo che il discorso possa essere anche più interlocutorio. E allora dicevo, mi avvio alla conclusione leggendo due brani, ancora una volta in parallelo, no? Come prima abbiamo visto, come visione di poetica, ora vorrei leggere un altro brano della poesia Cimone. Ripeto, con qualche dubbio che può rimanere sull'attribuzione, ma insomma è interessante. E nello stesso tempo invece un brano verso la parte finale del romanzo stesso. Allora, il Cimone, il penultimo brano. Laggiù nacque l'uomo insieme a bisce e rane, e laggiù restò con le sue leggi, con i suoi costumi e con le sue microscopiche grandezze. Più su ancora, ed ecco raggiunto il colmo della pace sognata, ecco il sogno d'amore, d'oblio delle caduche umane cose, alla porta dell'azzurro impero. Qui il Lio lirico, diciamo, non proprio l'auto, Lio lirico crea una forte contrapposizione tra il laggiù, cioè del mondo, della realtà, che può essere anche ben meschina, perché questo microscopiche grandezze, anche questo un ossimoro, è, diciamo, è in riferimento a ciò che gli uomini credono grande, ma che in realtà non lo è. Le leggi, i costumi, evidentemente qui è la visione pessimistica di Manzini, che considera la realtà a lui contemporanea una realtà che propone delle leggi ingiuste, che funziona secondo delle convenzioni e delle abitudini che dovrebbero essere riformate. Considerate che lui proprio a Pistoia aveva organizzato delle scuole serali dove si era improvvisato insegnante, aveva anche organizzato con un compagno che aveva un furgone, un autobus per accompagnare i ragazzini che non avevano mezzi a scuola e poi ancora altre iniziative. Quindi aveva delle idee anche molto riformistiche poi alla fine. E ecco il sogno d'amore, ma qui il sogno d'amore viene proiettato sull'altezza, sulla vetta del Cimone. Quindi ecco perché parlavo di pessimismo, come se questa speranza di amore e di fratellanza insomma, diciamo, si proietti in un'ottica abbastanza sublime, non dico metafisica, era ateo, ma potrebbe essere una metafisica atea, tanto per insistere con gli ossimori. E al di là di questo, però, il sogno d'amore c'è e la consapevolezza che le cose umane sono caduche, e viene in mente, leggendo vari brani di questo testo poetico, Il Cimone, viene in mente l'ascensione al Monte Ventoso di Petrarca. Certo, uno dei padri della lingua italiana, come sappiamo, e lì è un'ascensione, lì religiosa, effettivamente, è un'ascensione fisica anche, concreta, lui in cima al Monte Ventoso col fratello e ha le confessioni. di Agostino e poi scopre la verità che non è soltanto quella della natura, ma che è altra, no? È di tipo spirituale. Però qualche cosa di analogo, almeno mi è venuto in mente, perché forse anche per condizionamenti professionali, ma comunque c'è questa tensione verso un alto irraggiungibile, come con la consapevolezza forse che il pensiero anarchico, perlomeno nell'ottica in cui Manzini lo porta avanti, è abbastanza utopico, eh? Un'utopia di cui certamente abbiamo bisogno, perché le utopie sono fondamentali, anche se non si realizzano, però probabilmente ancora utopico. E concludo invece con un brano della parte finale del romanzo, che è proprio la testimonianza di questo amore filiale, tanto tormentato, e che quindi volevo appunto leggere in parallelo alle parole del padre, se sono veramente tali. Perché Gianna Manzini fu informata di come era morto il padre molto in ritardo, e come ho accennato prima, lui era ormai anziano, viveva al confino, dopo i vari momenti di esilio, viveva al confino Acutigliano, e si era spostato in una zona vicina, e mentre tornava verso casa viene preso a sassate proprio, e lui, per evitare di essere colpito da questo gruppo di facinorosi fascisti, siamo nel 25, quindi all'inizio del regime, però lui era già guardato di malamente, già da tempo, insomma, e quindi corre, corre sempre di più, fino a che poi arriva a casa e muore di infarto, non proprio subito, ma il giorno dopo, la notte dopo, non la notte immediata, quella successiva. Quindi l'effetto, è sicuramente derivato da quella aggressione violenta. Però questo lei lo sa in ritardo e lo racconta nel romanzo, ma mi sembra più bello leggere un brano in cui Gianna racconta di una visione che ha, che risulta una sorta di premonizione proprio di quella che sarà la fine del padre. Lei è al magistero, quindi è all'università. È all'università in un momento di relax tra una lezione e l'altra, mangia in un cortile con delle amiche e poi si avvicina al pozzo, no? Quei bei pozzi, no? Con gli scalini, sale e guarda l'acqua nel pozzo. Leggo: salgo gli scalini, mi incanto a guardare dentro il pozzo, il velo dell'acqua. Vi avranno galleggiato forse alcune foglie. Ma io vidi invece questo, un viottolo stretto, meno di 1 metro. Cinque o sei fascisti si schierarono dalla parte protetta, aspettandolo. Sarebbe bastata una spinta, una spallata. Egli, a 2 passi da loro, si soffermò appena, quanto bastava per fissarli ad uno, quindi, guardando davanti a sé, proseguì su un margine di sì e no 2 palmi, rasente il precipizio. Poi sarebbe più lungo il brano, ma l'ho troncato qui. Ecco, lei ha una di quelle esperienze che potrebbero essere chiamate epifaniche, no? Cioè, come prima mi sono riferita all'intermittenza del cuore di Proust, qui sembra proprio di pensare alle epifanie di Joyce o non solo di lui, insomma, a quelle rivelazioni che a volte l'essere umano ha e che fanno parte di una componente psicologica, emotiva, affettiva, certamente non controllabile. E si conferma qui l'immagine del cavaliere, quello che abbiamo visto all'inizio di questo mio intervento, perché lei lo vede, mentre ha questa visione, lo vede come un cavaliere che riesce a guardare i fascisti con coraggio. Certamente la paura l'ha dentro di sé, perché è vicino al precipizio, e lei racconta che quel luogo era un luogo che spesso aveva percorso con il padre, e insomma, zone impervie sicuramente. La paura dentro di sé c'è, ma guarda con determinazione, quasi sfidando i fascisti. E la giovane lo vede nell'acqua, e qui viene in mente una poesia di Montale che veramente presenta la stessa situazione. Cigola la carrucola nel pozzo, è di Ossi di Seppia, e lì il poeta si affaccia e nell'acqua del pozzo che viene tirato su dal secchio vede un volto, lì è una donna amata, è un volto che però poi a un certo punto si cancella, sparisce. No? Comunque è una situazione, forse si potrebbe definire archetipica, perché il pozzo chiaramente, no? Dal pozzo emerge qualcosa, l'acqua, anche quell'altro elemento archetipico, e quindi mi sembrava più interessante considerare questa esperienza epifanica che il dato oggettivo, che naturalmente è importante. E diciamo che con tutti questi momenti di recupero, alla fine la scrittura riesce, non credo, a superare il dolore, forse non proprio arrivare ad una catarsi, ma ad arrivare ad una assimilazione del dolore, questo sì, un'assimilazione per cui un'espressione del vissuto, cioè un'esperienza, direi più che espressione, un'esperienza del vissuto diventa un qualche cosa che può essere universale, proprio grazie alla letteratura. E nello stesso tempo io credo che al di là di questa dimensione individuale ce ne sia anche un'altra, perché in questo ambito, in questo romanzo, la tragedia di un regime politico feroce, dissennato, alla fine viene plasmata in questo romanzo in un procedere che è il procedere del divenire storico, questo, non altro. E qui mi fermo perché, così ripeto, magari qualcuno di voi potrà intervenire. Vi ringrazio, ringrazio voi e spero di avervi annoiato. Grazie.